Il 19 dicembre 2021 c'è la scadenza dell'affidamento ad ERA del servizio idrico, per cui è l'occasione in cui le amministrazioni pubbliche possono decidere quale sarà la forma di affidamento e a quale tipologia di imprese verrà data la gestione del servizio idrico del nostro territorio. Per questo che voi avete lanciato un appello, una petizione indirizzato proprio alle istituzioni e a Virginio Merola. Sì, è una petizione indirizzata a Virginio Merola, ma a tutti i sindaci delle amministrazioni pubbliche della provincia di Bologna, compresa l'area imolese. Noi abbiamo già fatto un'iniziativa 3 anni fa chiedendo all'agenzia, che deve in qualche modo poi studiare i nuovi affidamenti, che a Tersir avevamo mandato una lettera dicendo: è adesso il momento di avviare una discussione pubblica partecipata sulle modalità del nuovo affidamento dell'acqua, perché c'è bisogno di fare un esame pubblico molto approfondito sulle ragioni per cui è meglio una gestione, come noi riteniamo, fatta da un'azienda completamente pubblica, piuttosto che mettere a gara il servizio all'interno del quale ovviamente partecipano aziende quotate in borsa, multinazionali o addirittura proprio le multi-utility che gestiscono già il servizio nel nostro territorio, che sono aziende quotate in borsa, insomma. Quindi questa era la grande occasione. Noi oggi riproponiamo, dopo aver avuto qualche assicurazione da Atersir che faranno uno studio di fattibilità e un percorso partecipato, questo lo vedremo nei prossimi mesi, ma insomma la cosa che ci interessa è cominciare a coinvolgere i cittadini sull'idea che si può fare, oggi si può fare una gestione pubblica del servizio idrico come si era chiesto 10 anni fa nel referendum. Referendum che, l'abbiamo detto molte volte, è stato nei fatti disatteso, e c'è un'ulteriore minaccia in più perché nel recovery plan si dà impulso per la privatizzazione soprattutto al sud Italia. Sì, è così. Io non userei il termine disatteso, nel senso che il referendum secondo me è stato utilissimo perché ha prodotto, oltre che un movimento politico democratico nel paese di prima grandezza, ha prodotto un blocco di quelle che erano le ipotesi di privatizzazione che sarebbero scattate in quegli anni. Quindi diciamo il meccanismo di difesa da una privatizzazione incombente è stato pienamente realizzato. Certo, i poteri economici, quelli legati al profitto, alle aziende quotate in borsa, e tutto questo sistema neoliberista eccetera è andato avanti e in modo più strisciante ha tentato di ribaltare nei fatti il risultato referendario. Oggi ovviamente queste previsioni del governo Draghi, del resto perché meravigliarci, insomma, Draghi è stato uno degli autori della famosa lettera al paese insieme a Trichet, che appunto diceva che le privatizzazioni era una delle cose da portare avanti in via prioritaria, per cui c'è poca meraviglia del fatto che continui questo tipo di offensiva. Diciamo che da Bologna può ripartire invece una critica forte a una gestione privatistica dei servizi pubblici fondamentali per la vita delle persone. Alcune richieste contenute in questo appello le hai già enunciate, ce n'è anche una terza che riguarda il fatto di evitare una gara europea per la affidamento del servizio. Questa sarebbe la soluzione che privatizza definitivamente il servizio idrico, nel senso che i casi sono due ovviamente: o vince l'attuale gestore che era, per cui si approfondisce per altri 20 anni una gestione tutta piegata alla massimizzazione del profitto, ma sostanzialmente fuori dalle possibilità che i cittadini e le amministrazioni comunali decidono qualcosa sulla gestione del servizio idrico. Noi abbiamo visto che nell'esperienza per esempio francese a Parigi, dove è stata ripubblicizzata l'acqua, la sostituzione delle due multinazionali con un'azienda pubblica ha prodotto un 7% in meno di tariffe, ha prodotto un aumento degli investimenti, ha prodotto un'attenzione passione per l'ambiente, per il lavoro dei lavoratori che vi sono occupati, assolutamente di prima grandezza. Quindi è del tutto evidente che oggi si gioca quella partita. La scelta della gara europea, oltre a sancire definitivamente un processo di privatizzazione, a quelli che si illudono che necessariamente ERA possa vincere e quindi in qualche modo i comuni possano esercitare un residuale forma di controllo, è destituita da fondamento, nel senso che ci sono altre aziende private che potrebbero vincere la gara e a questo punto i nostri comuni sarebbero proprietari di un'azienda che non gestisce più il servizio nel proprio territorio. Sarebbe veramente un paradosso.